Ma in particolare ci sembrava importante sentire la sua opinione, anche perché insomma sta spesso è sulla cronaca non solo il comportamento in caso di arresto, ricordiamo i casi più eclatanti, Cucchi Aldrovandi, ma anche per esempio quello di cui parlavamo stamattina in rassegna stampa di Guyotte, ragazzo che fu fermato nel 2010 vicino allo stadio olimpico perché scambiato per un ultra, come se questo insomma fosse una giustificazione al pestaggio a cui fu sottoposto, che gli ha portato dei danni permanenti, e adesso si sta arrivando a conclusione del processo. Quindi io le volevo intanto fare una domanda. Lei pone l'accento su qualcosa che lei definisce l'illusione che la democratizzazione possa cancellare la possibilità appunto di questa riproduzione di violenze, anche di crimini, come parla lei, da parte delle forze dell'ordine. Ci vuole spiegare un po' meglio, insomma, rispetto a quello che ho detto io, questa sua opinione? Io dico che purtroppo un'illusione, nel senso che purtroppo dobbiamo constatare che la cosiddetta democrazia su cui tutti hanno sperato, tanti famosissimi autori, Norbert Elias, i più grandi democratici illuminati che speravano in un processo di pacificazione e via dicendo, tra i più grandi sociologi della polizia c'è Egon Bittner e via dicendo. Però questo processo di pacificazione della società e via dicendo non è dato, e la storia al contrario purtroppo ci mostra che è sempre coesistito e esisterà purtroppo probabilmente sempre la coesistenza tra democrazia e autoritarismo, tra violenza e mediazioni, tra pace e guerra. Chi l'avrebbe mai immaginato che dopo la caduta del muro di Berlino, dopo 50 anni dalla Shoah e via dicendo, sarebbe successo quello che è successo nei Balcani, la pulizia etnica e via dicendo? Nessuno l'avrebbe immaginato. Cioè, l'Europa che si vanta, che si crogiola del fatto che ha avuto addirittura, che io trovo scandaloso, il premio Nobel per la pace, quando è responsabile di quello che appunto è successo nei Balcani. Allora, il problema è che purtroppo nella storia e soprattutto nella storia recente ci si è illusi che sì, prima o poi ci sarà la pace che vince, la democrazia che vince, non è vero. Purtroppo si riproducono questi fatti, queste coesistenze di comportamenti violenti, di razzismo più becero, di addirittura di crimini inauditi. Appunto, non so, certo, qui non abbiamo avuto la pulizia etnica al pari dei Balcani, ma certi elementi sono evidenti, dico. Non dimentichiamoci tutta una serie di fatti, la panda nera, la uno bianca, ma l'affare Bonsu non è nel suo piccolo, tra virgolette, e non per poveraccio Bonzo, che per lui sarebbe stato un trauma che se lo ricorderà per tutta la vita, ma dico, sono fatti inauditi, se ci pensiamo. Rispetto allora, a questo, il problema è imparare a far fronte a questa situazione, significa dotarsi anche di strumenti di reazione e via dicendo. Se volete, se abbiamo tempo, vi racconto un fatto preciso avvenuto di recente, che è successo a una persona che tutta la sua vita l'ha dedicata alla mediazione pacifica, però si è trovato poi massacrato, anche sebbene protetto da un poliziotto, notate bene, da un poliziotto democratico, chiaramente, che sapeva chi era lui e via dicendo. Eppure l'hanno massacrato lo stesso, ha sporto denuncia l'avvocato si è impegnato, ma tutto è stato archiviato, perché cioè in questi casi la questione è per esempio veramente apprendere a dotarsi degli strumenti per tutelare di vendere la libertà fondamentale e l'incolumità delle persone, con quindi per esempio ho visto che ormai le tecnologie ce lo permettono, con dei video, con delle foto, con delle testimonianze, con e cercando il più possibile di avere degli elementi per poter poi quantomeno reagire, anche però, se non c'è da farsi tante illusioni. Questo sicuramente noi siamo i primi a non farcele, però ci sembra importante comunque agitare questi problemi all'interno anche di un'opinione pubblica che magari non arriva insomma a contattare voci diverse. Rispetto a questo, c'è davanti a questi episodi che ho citato, ma insomma se ne potrebbero citare altri, anche al comportamento delle forze dell'ordine durante le manifestazioni, poi un serrare le file da parte dei media, della politica, rispetto al fatto che la polizia comunque, e qui c'è tutto il repertorio, sono pagati poco, ci difendono eccetera, è comunque intoccabile di fatto, perché sì, anche poi io quello che però tra l'altro bisogna dire una cosa, che non è vero che è sempre così, cioè ci sono delle congiunture in cui questi fatti si aggravano e ci sono delle congiunture in cui si affievoliscono. Perché? Allora dobbiamo chiederci com'è sto fatto che per 25 anni, malgrado tutto, non c'era stato prima di Carlo Giuliani, per 25 anni ci sono stati 25 anni che la polizia non aveva sparato durante le manifestazioni. Questo è un fatto. Si può dire però c'erano altre violenze, ok, d'accordo, però che se ne dica, non c'erano state questi episodi di uso delle armi a fuoco durante le manifestazioni. Allora perché succede questo? Perché è successo il G8? Al di là del fatto specifico, cioè è successo perché c'è stata comunque un'esasperazione del ricorso alla violenza, e questa chiara protervia del potere del potere di questi ultimi 30 anni, che si è sentito in grado di poter abusare tranquillamente dell'uso della forza, della violenza estrema. E questo tra l'altro dopo il G8, l'attentato alle Due Torri, al congresso americano, quando ci fu il dibattito, Condoleezza Rice disse chiaro e tondo: guardate che noi qui lo sapevamo, dovevamo intervenire così eccetera eccetera, perché questa è stata l'escalation del neoliberalismo, del neoliberismo, che a seguito della, tra l'altro, della cosiddetta rivoluzione degli affari militari, che è stata anche rivoluzione degli affari di polizia, erano convinti di poter fare, strafare quello che gli pareva, quello che il comico Guzzanti diceva la casa della libertà, no? Cioè di fare, strafare, perché tanto ormai le classi subalterne erano a tappeto, erano in ginocchio, i sindacati completamente distrutti, la sinistra spantellata, anche perché la leadership e via dicendo si è convertita al liberismo, quindi si poteva imporre il volere delle lobby dominanti, in particolare della lobby militare industriale poliziesca, quella che ancora oggi impone di fare guerre e di spendere sempre soldi per il militare, per la polizia, di imporre quello che volevano, che poi corrisponda a imporre precarietà, salari sempre più bassi, produttività esasperata e tutti questi processi di finanziarizzazione che ci hanno portato all'attuale catastrofe, alla cosiddetta crisi economica, che non è al debito pubblico come se ce l'avessimo fatto noi, come se l'avesse fatto la popolazione, i lavoratori devono pagare adesso per il debito pubblico, perché è tutti a dire, i media, il discorso dominante a dire perché abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Insomma, ma chi si è arricchito. Perché non tassano quelli che sono il manco il 10% della popolazione che possiede tutto, e che possiede tutto perché si è fatto i soldi con questo debito pubblico? Allora pensiamolo tutto qui, perché non lo dicono? Perché non c'è un minimo, neanche il 10% del Parlamento che è disposto a dire questo? Questa è la questione, e non c'è nessuno del Parlamento. Vedi caso, a questo corrisponde il fatto che non c'è neanche il 10% del Parlamento che si rende conto di che cosa fa la polizia, di che cosa fa quegli attori forti che agiscono con protervie e abusi. Volevo buongiorno professore, volevo buongiorno. Chiederle una cosa. Lei prima, citando giustamente gli episodi di un passato anche recente come quelli della Bosnia eccetera, dice non impariamo, non riusciamo a imparare nemmeno dal passato, no? Quindi si ripetono certi meccanismi. Quello che volevo chiedere quindi è un ragionamento che sembrerebbe quasi a storicizzare il fenomeno, no? Nel senso che è in qualche modo ineluttabile questo ragionamento sul potere che si comporta in un certo modo, e questo abbinato alla democrazia pone evidentemente un interrogativo più grande: ma allora c'è un potere diverso, o sarebbe in teoria possibile un potere diverso che non si comporta così? Cioè è un male tipicamente della democrazia questo che lei denuncia, o anche del potere in quanto tale, che comunque si difende da corpi estranei? Il potere in quanto tale è potere, il potere in quanto tale è dominazione di qualcuno sugli altri, e si fonda su questo, c'è poco da fare. Il potere è anche in quanto tale discrezionalità, ed è uso sempre, da che mondo è mondo, di bastone e carota, per cui quando io dico coesistenza di autoritarismo e democrazia, di mediazione e violenza, è questo, che fin quando c'è un potere c'è uso di bastone e carota, c'è poco da fare. Allora la democrazia non è un potere, la democrazia teoricamente in astratto dovrebbe essere qualcosa che cancella il potere, ma questo è un'utopia che chissà se un giorno, in quale secolo sarà possibile. Per il momento no. È ovvio che ora qui non è che bisogna essere marxisti ortodossi, ma chiunque può capire benissimo, anche qualcuno che non è per nulla marxista può capire benissimo, che fin quando ci sono diseguaglianze, disparità, asimmetrie tra ricchezza e povertà, tra chi ha potere e chi non ce l'ha, ovviamente c'è questa coesistenza di violenza e mediazione, di bastone e carota, c'è poco da fare. E quindi insomma l'unico antidoto che praticamente, non solo teoricamente, potrebbe lenire o diminuire questo atteggiamento è una riproposizione di un conflitto che quantomeno insomma, e quindi di un antagonismo che permetta insomma che il bastone non prevalga sulla carota, insomma, ecco. È chiaro, l'unica speranza è che ci sia capaci di riuscire a creare dei rapporti di forza non troppo sfavorevoli, insomma, cioè voglio dire, appunto, se che cosa era quando ho fatto poco fa allusione ai 25 anni che dopo tutto la polizia non ha sparato in piazza, perché quei 25 anni malgrado tutto sono stati gli anni, vedi caso, dei grandi referendum sul divorzio e l'aborto, della relativa parzialissima c'è stata democratizzazione, è stata lo statuto dei lavoratori, insomma è stato un periodo di conquiste democratiche, dove quindi il rapporto di forza tra dominanti e dominati è stato un minimo riequilibrato. E invece dopo cosa è successo? Con la rivoluzione liberista, lo smantellamento di tutto l'assetto economico e sociale che c'era, prima la sinistra si è sfasciata, il leadership della sinistra è diventata liberista, i sindacati non ci sono più di fatto, sono... non ci sono più antidoti praticamente. Quello che bisogna chiamare erosione della capacità di agire politico da parte delle classi subalterne, cioè la nostra parliamoci chiaro, noi potremmo essere allo stato attuale anche 10.000 persone in piazza tutti i giorni e non succederebbe, come no, è successo negli ultimi anni, e negli ultimi anni non è che non ci sono state grandi mobilitazioni. Ci scordiamo che ci furono i 3 milioni contro la guerra, e poi la guerra ci fu lo stesso. Ci furono i 3 milioni contro l'abolizione dell'articolo 18, ci furono i 3 milioni, ci furono occupai, eccetera, eccetera, manifestazione per questo, è andata come è andata. Allora, perché? Perché purtroppo il potere è diventato sempre, cioè la simmetria di potere si è accentuata sempre di più, per cui anche se ci mobilitiamo tutti i giorni in 10.000, in 100.000, la possibilità di incidere è estremamente ridotta, anche perché non si tratta qui di fare le grandi mobilitazioni, una tandem e via dicendo, ma di ricostruire ex novo dal basso, dal livello microsociologico, nuovi rapporti di potere. Senta, volevo tornare, pronto? Mi scusi, volevo tornare. Non sento niente. Pronto? Sì, pronto, sì, la sentiamo. Però io non vi sento. Pronto, più. Mi sente adesso? Adesso sì. Ecco, allora forse. Allora, volevo tornare alla questione dell'articolo, no? Non che quello che lei stia dicendo non c'entri, anche perché in certa parte lo tratta. La questione proprio della polizia italiana, no? Su cui lei si sofferma. C'è stata una riforma che doveva garantire una democratizzazione, le cose sono andate evidentemente molto diversamente. Lei fra l'altro cita anche un codice europeo di etica delle polizie che sono andata a vedere, che è bello, insomma, dice, cioè sarebbe proprio molto molto pregnante rispetto proprio ai comportamenti di cui stiamo parlando. Eppure questo... cioè è una raccomandazione, diciamo, no? Mi pare dell'Unione Europea, ma al pari anche della Convenzione Europea contro la tortura, in Italia rimane lettera morta. Lei però fa anche delle considerazioni interessanti sulla struttura proprio poliziesca, no? Che lei dice da circa 15 anni il reclutamento, di questo noi abbiamo parlato per radio, privilegia i volontari che hanno svolto servizio militare nelle missioni all'estero, quindi in teatri di guerra, come lei giustamente li chiama. Questo sicuramente va proprio in senso assolutamente contrario a ogni ipotesi di qualche anima bella di una possibile democratizzazione, chiamiamola così. Sì, perché questa è la cosa grave, no? Ma perché succedono tutte queste cose? Perché tra l'altro, cioè, parliamoci chiaro, dappertutto c'è stata gli effetti e conseguenze di questa rivoluzione liberista, e quindi la tendenza agli abusi, alle violenze da parte delle polizie, cioè in tutti i paesi, in Francia con Valls ancora di più addirittura che con Sarkozy. Ebbene, però che se ne dica, in Italia siamo combinati peggio. Non c'è la legge sulla tortura, non c'è il codice etico, cioè, approvato nel 2001, non c'è minimo di autorità indipendenti che controllano l'operato delle polizie, eccetera, eccetera. Ma perché? Perché basta guardare la maggioranza, la quasi 99%, se non 100% quasi, i politici italiani di tutti i parlamenti che si sono succeduti non ne capiscono niente, non ne sanno niente e non se ne fregano, perché tra l'altro l'unica cosa che sanno fare, e questo vale anche per la stragrande maggioranza dei giornalisti, è essere a corteggiare le polizie, sia per coprirsi le spalle rispetto ai loro malefatti e corruzione varie, sia perché credono che in ogni caso la polizia sia un'istituzione. Del resto il discorso che ha fatto il nostro caro Presidente della Repubblica l'altro ieri sembrava il Presidente della Polizia, non il Presidente della Repubblica. Mi dispiace dirlo, ma è così. Allora, qua siamo in una situazione in cui di parlamentari che sanno che cosa è la polizia, come funziona la polizia, che cosa è la polizia e via dicendo, ce n'è pochissimi. La maggioranza dei giornalisti, che se ne dica, negli altri paesi ci sono di giornalisti che sanno avere un atteggiamento indipendente. Qui e questo è anche colpa dell'ondata giustizialista che c'è stata in Italia, e i signori giustizialisti, non faccio nome, tutti capite chi sono, questi dei talk show famosi, sono lì che sempre a tappetino ai piedi dei poliziotti, come se fossero i grandi servitori della patria che difende, eccetera eccetera, no? Ma se si vuole dare dignità e rispetto anche a questa istituzione, bisognerebbe dire la verità. E tra l'altro, che onore gli fa alla polizia conservarsi nei suoi ranghi persone che hanno fatto vigliaccate incredibili? Cioè, questo è il discorso. Che onore gli può, cioè, che dignità un'istituzione che fa questo, a parte il fatto che nessuno dice che in Italia ci sono troppo personale delle polizie, si spende troppo per la sicurezza pubblica e privata. Facciamo un confronto con tutti gli altri paesi, non c'è paragone, ma è pazzesco. Per non parlare del fatto, ne hanno parlato anche tutti i giornali al periodo della spending review, non si capisce perché il nostro capo della polizia prendeva uno stipendio che era 3 volte il capo dell'FBI. Che avrà ben altri problemi. Non si capisce perché nessuno si rende conto che cosa significa il fatto che da 15 anni, se non di più, ormai il reclutamento nelle forze di polizia è solo fatto da ex volontari che hanno fatto i militari nei teatri di guerra. Significa un processo di rimilitarizzazione delle polizie in Italia. Tra l'altro, questi sono spesso volontari. Un'altra cosa, perché di fatto non c'è una legge vera e propria che regola per esempio le polizie municipali. Perché le polizie municipali devono essere armate? Ma stiamo scherzando, che abbiamo già 5 polizie dello Stato, eppure le polizie municipali armate con le stesse di fatto possono svolgere le stesse funzioni della Polizia Nazionale. È pazzesco, una sovrapposizione di competenze, di cose. Cioè, le polizie municipali che devono occuparsi di tutto, ma l'irrazionalità totale. Cioè, anche dal punto di vista conservatore e reazionario, è una cosa demenziale. Allora, i politici italiani sono complici e responsabili di tutto questo, anche perché l'ignoranza è complicità, non è che c'è altro che si può dire altrimenti. Insomma, sono stati eletti per che cosa? Per occuparsi della res pubblica. E che cosa, come se ne sono occupati? L'unica cosa è che andate a guardare anche i soli parlamentari che fanno parte della commissione interna e commissione difesa, no? Che dovrebbe essere quelli più competenti, si occupano di che cosa? Della riforma del sistema elettorale. Senta, professore, io la ringrazio molto di questo contributo. Vabbè. Sicuramente approfitteremo ancora della sua disponibilità. Io in conclusione vorrei leggere a lei e a chi ci ascolta proprio 6 righe di una lettera che è stata pubblicata sabato 3 maggio da Repubblica nella posta di Corrado Augias, dove una persona, un padre, insomma, ben pensante direi, che dice: cerco di far comprendere a mio figlio che non tutti i poliziotti sono fascisti camuffati, non tutti sfogano le frustrazioni con abusi a volte tanto violenti da causare la morte. E aggiunge: però non posso nemmeno vivere con l'incubo che se mio figlio fosse fermato per un controllo la notte sul motorino e dovesse rispondere male, rischia di entrare vivo in commissariato e uscirne morto, magari con un certificato medico che parla di arresto cardiaco. Ecco, poi Augias in realtà non risponde a questa cosa, ma fa i soliti discorsi di cui penso sia noi che lei non ne possiamo più, sulle mere marce eccetera eccetera, però mi sembra significativo magari di un, diciamo, un dubbio che si stilla anche diciamo nella mente di persone che poi ribadiscono in questa lettera la loro assoluta fiducia alle forze dell'ordine nel loro complesso, e sul quale credo che sia importante invece fare informazione, perché rivolgersi a quelli che già lo sanno è utile, ma è importante, ma è più utile rivolgersi a chi comincia a dubitare di tutta questa costruzione che lei ci ha descritto così bene. Quindi devo dire una cosa, che attenzione, è vero, dentro la polizia ci sono dei democratici, purtroppo sono un'estrema minoranza, e in questi ultimi 20 anni sono addirittura a volte perseguitati. Per questo c'è anche, sarebbe bisogno di proteggere questi. E vorrei ricordare che proprio per esempio di un caso di tantissimi anni fa, l'assassinio a botte di Franco Serantini a Pisa, c'è un bel libro di Stagliano dove c'è anche la testimonianza di un commissario che ricostruisce i fatti per come effettivamente erano andati, alla fine va via dalla polizia, e questo direi che è emblematico. Va bene professore, ancora tante grazie, arrivederci. Prego, arrivederci.